Come un pirata cerchi un tesoro sulla mappa dei perché. Duro fuori ma sarà vero, e dentro cosa c'è? Forse oro fuso che si deve indurire, ma sei sicuro che lo riuscirai a modellare? E ti affacci un giorno fuori dal tuo portone, come se fosse l'orlo di un grande burrone, che scende da te e si va a tuffare tra gli stretti scogli dove sbuffa il mare. Dove sbuffa il mare. Come una bomba lanciata che è pronta a scoppiare, o come il sole che all'alba è in equilibrio sul mare, sospeso su un filo, su un fuoco mortale, tendi le mani un po' al bene e un po' al male, e ti affacci ogni giorno fuori dal tuo balcone, come se fossi in piedi su un cornicione, che fragile trema e sta per crollare sulla folla ferma, che ti sembra un mare. Che ti sembra un mare.